Di noi due, mi perdo in pensieri vecchi, ma in emozioni sempre vive, sempre con me, come il tuo odore, dopo una sera passata insieme. Sai, lo so che non lo dico mai, oh, forse non mi spiego, ma il sentimento che mi dai è come il cielo la mattina presto, come il calore di un camino. Quando rientro io mi perdo nella tua pelle liscia, nel tuo sorriso che illumina il tuo viso, nel modo in cui sai farmi perdere la testa, perché tu sei bella come sei. Sei vera a volte troppo, sei dura sì, nel modo giusto, sei mare da impazzire, sei unica ed è per questo che sei entrata nel mio cuore e ne hai preso possesso. Sai che quando ti guardo io mi perdo negli occhi tuoi, e quando sei vicino a me non c'è niente meglio del tuo odore e del sapore dei baci tuoi. Del sapore dei baci tuoi. Sai che quando sei qui il tempo si ferma per noi, e ogni sospiro vibra con l'eco dei baci tuoi, e spero che questo sogno non finisca mai. Voglio vivere con te ogni secondo. Ora non riesco a credere che hai cambiato la testa d'uno come me. Io che non ero l'esempio del ragazzo perfetto, io perso tra le mie abitudini da reietto, io con i miei casini, io con i ragazzi a fare i cretini, sempre in un angolo e tu che non mi notavi, io che sentivo che dentro me diventavi una parte indissolvibile, incredibile, e mi chiedevo se innamorarmi era davvero possibile. Io che mi vedevo lo scapolo perfetto, proprio quando il tuo sguardo mi è finito addosso. Ora non posso stare più di 5 minuti senza te, chissà se sai che non sono ancora dissuaso che tu non mi abbia stregato. So sentire il tuo odore e se mi fermo più un minuto è da impazzire come ho bisogno di te, e da togliere il fiato quello che provo per te. In sintesi posso dirti che pendo dalle tue labbra, spero non te ne accorga. Sai, potresti uccidermi se ne avessi la voglia. Sai che quando ti guardo io mi perdo negli occhi tuoi, e quando sei vicino a me non c'è niente meglio del tuo odore e del sapore dei baci tuoi. Nel sapore dei baci tuoi. Sai che quando sei qui il tempo si ferma per noi, e ogni sospiro vibra con l'eco dei baci tuoi, e spero che questo sogno non finisca mai. Io voglio vivere con te ogni secondo.